Te vi sotto un proì, pusundo messi meribu, sundo messi meribu. Pusuntoyo, vasile ma. Ne ranzo, ne ranzo, ne ranzo, figli me di me. Ranzo, ne ranzo, figli me di me. Tutta da su, po erini che i panayasme e crini. Tutta da su, po erini che i panayasme e crini. Tutta su poerini che i panayasme e crini, tutta su poerini che i panayasme e crini.